CRM Linea Sport, in linea con lo sport. Un cordiale buon pomeriggio a tutti voi amici di CRM, vi giunge da Santi Genovese qui oggi ai microfoni di questo appuntamento che riprende dopo la pausa che abbiamo fatto, la pausa pasquale, riprende nuovamente con lo sport. E siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda i diversi campionati di cui ci siamo occupati fino adesso. Parleremo di calcio, parleremo di basket e parleremo di pallavolo, ma soprattutto oggi parte una nuova rubrica. Oggi inizia una nuova rubrica in questo appuntamento sportivo, e cioè la rubrica che riguarda gli amici e appassionati di automobilismo. E allora io dall'altra parte della sala ho un gradito ospite che sarà colui il quale ogni settimana ci aggiornerà e soprattutto ci parlerà di automobilismo, e saluto cordialmente l'amico Angelo Matassa. Ciao Angelo. Ciao, buonasera. E allora, tutto a posto? Buonasera a tutti, sì, tutto a posto. Ti ringrazio di avermi invitato. Non so se sono degno o se sono adatto di fare questo lavoro, sì. Perché non sono un giornalista, sono solo un appassionato, però vabbè, possiamo dire la nostra. Ecco, bravo Angelo, tu sei un opinionista a 360 gradi, vivi e hai vissuto all'interno, anche se non sei un pilota, ma hai vissuto all'interno di questo mondo bellissimo che è quello dell'automobile, e io non potevo scegliere migliore partner per così avere questa rubrica importantissima all'interno di CRM Linea Sport. E dunque Angelo, gli amici ti aspettano con grande interesse, anche perché vogliono sapere adesso da te, visto che va a iniziare una bella stagione automobilistica di rally, di slalom. Ci protrarremo fino quando, Angelo? Fino a ottobre, novembre, avremo da tante gare. Avremmo sicuramente. Beh, la stagione, l'hai detto tu, è appena iniziata, finisce giusto appunto ottobre, novembre, poi dipende i campionati. Ecco. Domenica c'è stata la prima gara di moto mondiale, se vogliamo puntare in alto. Certo, dobbiamo parlare anche a livello nazionale, anche se i media ne parlano tantissimo, però noi daremo degli accenni anche per quanto riguarda lo sport a livello nazionale e mondiale, di quello che succede sia nel motociclismo, sia nell'automobilismo, nei rally, insomma tutto questo campo molto vasto dell'automobile, dei motori. Due settimane fa è partito il campionato italiano di rally, dove abbiamo visto peraltro trionfare il nostro grande amico Gian Domenico Basso, che ha dominato. Adesso sono pronti per il secondo round. E ne parleremo. Benissimo, allora io Angelo per il momento ti lascio in stand by per qualche minuto, così tu magari prepari tante belle chicche di cui ci illustrerai durante il corso del programma. Noi iniziamo come di consueto con il calcio, soprattutto perché questo fine campionato, questo fine torneo si fa veramente interessante, e ancora noi ci rammarichiamo per quella partita di Collesano che la squadra cefaludese purtroppo non ha portato a casa i tre punti, se no oggi la classifica sarebbe un po' diversa da quella che andremo a vedere adesso. Comunque nello sport, nel calcio, i rimpianti non servono, ma serve soprattutto guardare avanti e continuare sempre per la propria strada. E noi adesso andiamo a vedere un po' i risultati che si sono maturati nell'ultima giornata di campionato, che si è disputata il 7 di aprile 2013, e vediamo com'è cambiata un po' la classifica rispetto a come l'avevamo lasciata. E allora andiamo subito a vedere i risultati. CUS Palermo Ciappazzi 5-4, Equipe Palermo Collesano 0-3, Cefalù Delfini 2-0, Montemaggiore Mamertina 0-1, Patti Real Calcio Termini 2-5, Spadaforese Rocca di Caprileone 0-0, era il big match della giornata ed è finito 0-0, Igea Virtus Sacro Cuore Milazzo 3-2, una partita poi alla fine molto tirata, vinta dalla squadra che contende insieme al Cefalù e a Rocca di Caprileone, si contende attendono questa vittoria finale in questo campionato. E dunque andiamo a vedere, per in virtù di questi risultati che si sono maturati appunto in quest'ultima giornata, che la classifica prende veramente una visione ancora che dà la possibilità a queste tre squadre, cioè Rocca di Capeleone, Cefalù Calcio e Geo Virtus, di giocarsi quel posto per andare per vincere direttamente il campionato. E allora Rocca di Capeleone 64 punti, dunque le due squadre, Cefalù Calcio e Geo Virtus, hanno rosicchiato alla capolista qualche punto e si sono portati a 62 punti, solo a 2 punti dalla Rocca di Capeleone. Questo è molto importante e lo andremo a vedere anche quando andremo a valutare le altre due giornate che mancano al termine del campionato. Poi abbiamo la Spada Forese a 57, Sacro Cuore Milazzo 50, Ciappazzi 41, Montemaggiore 38, Mamertina 36, Real Calcio 35, Torregotta 35, Cus Palermo 34, Sant'Agata 28, Delfini Vergine Maria 26, Collesano 21 e poi Equipe Comprensorio a 11 punti insieme al Patti. E dicevamo di valutiamo questi risultati in funzione di quelle che poi sono le ultime due giornate di campionato. E allora pensate che praticamente la prossima settimana, il 14, sarà una settimana importantissima, anche se secondo me la settimana più importante è proprio l'ultima, in quanto le squadre impegnate per vincere il campionato giocano rispettivamente il Cefalù contro il Sacro Cuore Milazzo, Mamertina contro l'Igea Virtus, e Rocca di Capeleone invece gioca in casa con il Montemaggiore. Scontata la vittoria, che poi nel calcio non c'è nulla di scontato, comunque diciamo che le percentuali per vincere la partita del Rocca di Capeleone sono al 99%, scontata, dicevo, questa vittoria, le altre due partite si presentano un attimino diciamo delicate, ma non impossibili, in quanto il Cefalù affronta il Sacro Cuore Milazzo, che in classifica ha 50 punti e naturalmente non ha più, per il momento non ha più nulla da chiedere a questo campionato, in quanto davanti a sé c'ha la Spada Forese a 57 e chiaramente non può più arrivare alla Spada Forese, mentre dietro c'ha il Ciappazzi che c'ha 41 punti, dunque non ha problemi di essere presa. Dunque è una partita che il Sacro Cuore Milazzo può giocare tranquillamente e Cefalù deve far di tutto per vincere questa importantissima partita. E dunque troverà una squadra che già paga del suo campionato, ma che vorrà dare una soddisfazione ai propri tifosi. Dunque una partita possibilmente da vincere, però molto delicata, che il mister Minutella deve preparare con molta accortezza e deve soprattutto giocarla con un criterio abbastanza importante, perché chiaramente ne vale del campionato. Infatti se queste tre squadre vinceranno queste penultime le partite della penultima giornata, e andiamo anche a vedere Mamertina Igea Virtus, l'Igea Virtus è il secondo, abbiamo detto, con 62 punti a pari punti con la Cefalù Calcio, incontra una Mamertina che non ha più nulla da chiedere anche lei al campionato, si trova in centro classifica, si è salvata, è fuori dai play-off, è fuori dalla zona play-off, di conseguenza diciamo che la Mamertina come anche Sacro Cuore Milazzo, ma Sacro Cuore Milazzo è in zona play-off, perciò magari faranno riposare qualche giocatore, non ha più nulla da chiedere a questo campionato, e dunque presumiamo che queste tre partite dovrebbero essere tre vittorie per le tre squadre di testa, ed ecco che arriviamo all'ultima giornata di campionato. Ultima giornata di campionato importantissima, in quanto ecco qui lo scontro diretto fra l'Igea Virtus e Rocca di Capeleone. A questo punto l'Igea Virtus, arrivando a due punti dalla capolista Rocca di Capeleone, si gioca tutto proprio in casa all'ultima giornata, mentre la squadra cefaludese della Cefalù Calcio starà a guardare alla finestra, in quanto giocherà in casa con la Mamertina, di cui abbiamo detto ormai è in una posizione tranquilla e che sicuramente non penso può giocare con il coltello fra i denti, anche perché non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Dunque importantissimo lo scontro dell'ultima partita, ma importante soprattutto che si facciano i tre punti nelle partite di domenica prossima. Questo veramente è un campionato thrilling fino all'ultima giornata. E noi siamo contenti quando i campionati finiscono in questa maniera qua. Certo, saremmo più contenti se la nostra squadra vincesse il campionato, chiaramente, però siamo contenti perché il campionato diventa veramente appassionante. Adesso noi facciamo una pausa, ascoltiamo un brano musicale, dopodiché ritorniamo in studio e parleremo di basket, perché la squadra cefaludese sta affrontando i playoff di basket, dunque uno stacco musicale. Strada deserta al confine del mare, sento il cuore più forte di questo motore. Sigarette mai spente sulla radio che parla, io che guido seguendo le luci dell'alba. Lo so, lo sai, da me dal tempo e si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera, nasce l'aurora. Tu sei dentro di me come l'alta marea che scompare e riappare portandoti via. Sei mistero profondo, la passione, l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Lo solo sai, il tempo vola, ma quanta strada per rivederti ancora. Eccoci tornati nuovamente in studio dopo la pubblicità, dopo un bel brano musicale di Ornella Vanoni. Adesso una bella voce al telefono. Pronto? Pronto, grazie per la bella voce. Ciao Totò. Ciao Totò. Infatti ti stavo annunciando, Salvatore Marsala, Totò Marsala per gli amici. In questi giorni abbiamo avuto parecchi complimenti per te, per la tua squadra, per la tua passione. Cioè praticamente sei lo Zamparini della situazione, focoso, grandissimo. Sì. Comunque Zamparini nel calcio, ma noi per quelli che hanno un'età un po' più avanzata come me, diciamo che praticamente noi ci ricordiamo Massimino, presidente del Catania, e Rozzi, il presidente dell'Ascoli, che erano veramente appassionati e passionali per la loro squadra. Comunque Totò, devo farti i complimenti. A me è dispiaciuto che la scorsa settimana non sei stato qui con noi, però oggi ti ho voluto anche al telefono, semplicemente perché dobbiamo proprio tenere una linea diretta con lo sport e con gli amici. Dimmi Totò, parlavi con me? No, non parlavo con te. Dicevo, noi siamo partiti con questo programma dove praticamente tu insieme ad altri amici dello sport cefaludese abbiamo iniziato un percorso. In questo momento ci occupiamo proprio dello sport in particolare, perché impegnati in queste conclusioni di campionato. E allora parliamo di questi playoff. Totò mi aveva anticipato giorni fa, non è una partita molto difficile, così si è dimostrata. Vogliamo parlare di questo girone, di questo gruppo A? Ma guarda, le partite dei playoff sono sempre un terno all'otto: se giochi male perdi, se giochi bene vinci. Ovviamente la partita non era difficile, abbiamo iniziato un poco sotto gamba, anche perché la squadra che abbiamo scontrato, con cui ci siamo scontrati, insomma, non era così poi diciamo scarsa. Era una bella squadra, c'era un giocatore che in Serie B solo quest'anno non ha avuto contratto, due erano giocati in C1, però diciamo i nostri giocatori tranne i primi 5 minuti, che erano un po' frastornati, va bene? Poi hanno messo la marcia che loro sanno quale, e abbiamo dominato l'intera partita. Hanno messo la sesta, insomma, ecco, Totò. Ma la sesta, perdone. Oggi possiamo parlare della prima, poi. Possiamo parlare di automobilismo, perché abbiamo iniziato una rubrica sull'automobilismo. Abbiamo Angelo Matasta dall'altra parte che scalpita, fra un po' inizieremo anche a parlare con lui di automobilismo. E dunque è stata poi alla fine una bella partita, tranquilla, insomma, si è vinta. Ecco, perfetto. Sì, alla fine praticamente abbiamo giocato come sappiamo giocare, perché ormai questa squadra è imprevedibile, riesce a fare delle cose che diciamo nemmeno loro hanno di programmato, e poi realmente dominano e vanno all'obiettivo finale, che è la vittoria. Devo farti i complimenti, perché sono veramente un bel gruppo, veramente. Io li ho visti contro l'Aquila, malgrado la sconfitta di un punto che non ci stava assolutamente per il cuore che i ragazzi hanno messo in campo, però sono veramente con l'Aquila non hai visto la squadra, perché insomma la vera squadra è quella che sa di essere nel momento in cui praticamente decide di mettere, come dici tu, la sesta, e non ce n'è per nessuno. Totò, sono stato sfortunato. Vuol dire che la prossima volta sarò più fortunato. Ascoltami, allora parliamo della prossima. Allora, diciamo intanto, premesso che si dovrebbe superare questo primo turno, ci aspetta il Licata o il Paceco, perché la partita fra il Licata e il Paceco è finita per 77-61. Anzi, ricordiamo anche il risultato di Cefalù batte Adrano 77-43. Dunque con un ottimo margine di vantaggio. Allora, Licata Paceco invece è stata un po' più equilibrata, perché è finita 77-61. Allora, un tuo commento, come vedi queste due squadre? Guarda, secondo te, dimmi. Se commento Licata Paceco, che sono praticamente le squadre, però io ti dico una cosa: noi giovedì intanto andiamo a giocare ad Adrano, e non sarà molto semplice e facile la partita, anche perché loro si giocheranno tutte le carte, la metteranno sulla rissa in campo, ovviamente sportiva sempre parlando. Certo, ci mancherebbe. E quindi poi dico, eventualmente dovremmo avere anche la bella finale in casa, diciamo, 99,9% il turno lo superiamo, c'è sempre quella possibilità, può succedere, certo, di tutto. Certo, nello sport anche non si sa mai. Ma anche se non succederà niente. Va bene. Niente, rincontreremo noi il Licata e il Paceco. Diciamo che il Licata ha vinto in casa di poco, deve andare a Paceco. Sono due squadre un pochettino, insomma, con giocatori di esperienza, quindi non sarà una partita semplice. Ovviamente abbiamo sempre la bella in casa, che questo è stato veramente il vantaggio che ci permetterà di arrivare quantomeno alle semifinali, che insomma è già un obiettivo strepitoso per cui noi ancora non avevamo assolutamente programmato. Però, come si era partito, vero? Io, insomma, come si era partito, per la prima volta in 5 anni ho sbagliato pronostico. Bravo, devi sempre sbagliare pronostico. lo so, ma ogni tanto lo so. E quindi sarà il Licata, una squadra particolare, con 3 giocatori nuovi che hanno preso a febbraio, il Pacheco, che è una squadra con una grande esperienza, con giocatori insomma importanti che riescono veramente a fare ciò che vogliono in campo. Una domanda, il pronostico secondo te è quale delle due preferiresti avere il prossimo turno? Ma guarda, uno delle due per me, o l'uno o l'altra, non è certo il Pacheco, perché la conosciamo come squadra, che già l'abbiamo scontrato 2 volte. E il Licata lo sconosciamo perché era l'altro girone. Il Pacheco secondo me è favorito in casa, quindi penso che arriveranno alla bella loro, perché insomma, però sai, poi si vedrà, non lo so. Vediamo, non ti sbilanci né sul pronostico né su quella che magari... Assolutamente. La pallacanestro è un gioco molto particolare, a volte si scontra con giocatori fortissimi e giocatori deboli riescono a vincere. Per questo è bella la pallacanestro, perché il risultato non è mai scontato. Allora, a parte questa partita Licata-Pacheco, poi le altre partite, almeno dal risultato, non è che ci sia stata tanta storia, Mazzara-Gravina 90-68 e Ragusa-Trapani 93-59, dunque diciamo che se non ci sono sorprese sono risultati scontati, e che dovrebbero essere queste 3 squadre in attesa di Licata-Pacheco, poi per vedere chi dei due supererà questo turno. Andiamo nel girone B, che ci interessa, perché se arriviamo in fondo dobbiamo incontrare la vincente di questo girone. Noi abbiamo avuto risultati molto, anche qua con un punteggio vasto, solo una partita diciamo equilibratissima, e che è quella fra il Green Palermo e il Melilli, che è finita 70-68. E allora un commento su questa partita, perché le altre diremo i risultati, ma mi sembra che già sia ascoltato il passaggio. No, i risultati, diciamo, è stata una partita molto combattuta. Green Basket e Melilli, diciamo, il fattore campo è risultato positivo nei confronti del Green Basket, hanno vinto di 2 punti. Le altre sono stati risultati scontati, ma che alla fine, se noi ci scontreremo il Mazzara, e qui sarà nella semifinale. Ripeto, dopo Licata o Pacheco, va bene? Ecco. Però diciamo che, signori miei, giochiamo partita dopo partita, nulla da fare pronostici, già arrivare in semifinale o finale, perché ancora purtroppo è tutto da giocarci. Playoff sono un campionato a parte, un campionato a sé, può succedere di tutto. La Zanella Basket ha ottenuto un risultato, è stato un risultato strepitoso, ci hanno considerato in Sicilia la mosca bianca della Sicilia, per come abbiamo gestito, con pochi soldi, con elementi locali, solamente con l'innesto di Mumuni, e questo significa essere grandi già in questo. Io ammiro i miei ragazzi, ho detto sempre, non li cambio con nessuno, anche se a volte la loro follia insieme a quella del presidente gli permette di vincere le partite dominando, meglio di così. Quando ho detto che il presidentissimo Totò Marsala trasmette la sua voglia di vincere ai propri ragazzi, non mi sbagliavo allora? Sì, tu lo sai, mi conosci, io decido, cioè, trasmettere, come dici tu, questa voglia di vincere ai miei ragazzi, insomma, è sempre stata il mio punto di forza. Bene, sono nato vincente e morirò vincente. Bene Totò, noi ammiriamo e abbiamo bisogno e abbiamo bisogno a Cefalù di persone proprio come Totò, che non si abbatte alle difficoltà che poi ci riserva anche lo sport, ma bisogna sempre superarle. Allora ricordiamo così parzialmente, così a titolo di cronaca, anche i risultati, che sono stati Porto Empedocle Alcamo 91-63, abbiamo detto di Green Palermo Melilli 70-68, e poi Siracusa Nuova Agatirno 93-52 e Nuova Aquila Vigor Camarina 95-61. Il prossimo turno sarà giovedì 11 aprile, per la bella invece se ne parlerà domenica, per quelli che dovranno fare la terza partita, giusto? Sì, esatto. Allora, esatto, superando questo turno, la prossima partita quando sarà, Totò? Prossima domenica, no, questa è la prossima ancora. La prossima ancora, benissimo, così esatto. Ragazzi avranno tempo di riposare, di stare tranquilli, esatto, e di ricaricare le pile, e Totò che li controlla da vicino, va bene? Va benissimo. Non facciamoli distrarre, Totò, mi raccomando, questi ragazzi. Ok, io ti abbraccio Ti saluto, okay, noi ci riaggiorneremo martedì per tirare un po' le somme, per parlare della squadra che affronteremo e magari al telefono, perché so che tu hai mille impegni, certo, e ti capisco. Lo so, okay. Ok, ciao. Ma vediamo se posso venire. Ecco, ciao, se ciao, ci sei, tutti. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, okay, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Bene. E allora, caro Angelo, abbiamo ascoltato anche la voce del nostro Totò Marsala. Secondo me, Angelo, se Totò correva in macchina con la grinta che si ritrova, sarebbe diventato un campione anche di automobilismo, credimi. Sono convinto di questo. È da ammirare. No, veramente. E allora, noi adesso facciamo ancora una piccola pausa, ci ascoltiamo facciamo una cosa, chiudiamo con la pallavolo, così poi ci dedichiamo interamente alla rubrica sportiva per quanto riguarda l'automobilismo con Angelo. Angelo, cosa hai preparato? Ecco. C'è un po' di carne al fuoco, adesso ne parliamo. Allora possiamo mangiare. Sì, quello sempre. Quella tua è deformazione professionale. Ovvio. Ok, allora parliamo del campionato di pallavolo, le partite che si sono disputate fra il 6 e il 7 di aprile 2013. Andiamo a vedere i risultati. Dunque, Agragas Agrigento, Domenico Savio Messina 3-0, poi Pei Publicite Cosenza, Gallico Reggio Calabria, dunque 3-1, poi ancora Norma Volley Santo Stefano Messina Camerina, Vittoria Ragusa 2-3, dunque vittoria fuori casa per 3-2 della Camerina Ragusa, poi ancora Pallavolo Sicilia Catania con ha incontrato la S Pallavolo Cutro di Crotone, ha vinto la Pallavolo Sicilia Catania per 3-2, ancora la Polisportiva Barcellona contro la Mediocrati Cosenza che ha vinto 3-1 la squadra di casa, una sconfitta amara e pesante per i colori cefaludesi della Costa Verde Cefalù che sono stati sconfitti per 3-0 dalla Golem Reggio Calabria. I parziali 25-15, 25-18, 25-17. Da questi parziali vediamo che francamente non c'è stata partita perché i locali hanno vinto tranquillamente. Andiamo a vedere un po' la classifica. Avevamo lasciato qualche giornata fa la squadra cefaludese nelle primissime posizioni, adesso la troviamo al quinto posto, ma andiamo a dare un'occhiata alla classifica. Agragas Agrigento 65 punti, ormai ha dominato il campionato, poi al secondo posto la Pallavolo Cutro con 48, vedete che distacco abissale fra la prima e seconda, e poi Publicity Cosenza 44, Golem 43, Costa Verde Cefalù 42, Camerina Ragusa 36, Rinnova Costanzo Siracusa 34 e via via tutti gli altri. Comunque c'è da fare veramente un elogio alla società della Costa Verde Cefalù, perché malgrado le varie difficoltà e malgrado non avevano una rosa, non hanno avuto una rosa completa per tutto il campionato, sono arrivati fino a questo punto e hanno portato avanti veramente un campionato onorevolissimo, e noi facciamo in bocca al lupo a questa società e auguriamo che possa terminare il campionato alla grande, così come praticamente se lo merita. Bene, adesso uno spazio musicale per quanto riguarda la nostra trasmissione e dopo torniamo in studio e cominciamo a parlare di automobilismo. Allora, eccoci tornati nuovamente in diretta con CRM Linea Sport. Io prima di dare la linea, il microfono e tutto quanto, lo spazio al nostro Angelo Matassa, che vedo già scalpitante dall'altra parte, volevo ringraziare i nostri sponsor che sono sempre presenti qui in trasmissione. Non l'ho fatto all'inizio, lo farò più volte adesso. Mondo Moto in Ricambi Auto e Moto in via Roma 127 a Cefalù, poi ancora Betty Sisili ed infine la Globat Viaggi in via Porto Salvo. Un saluto ai nostri sponsor e un saluto all'amico Peppe Fiducia che mi scrive un messaggio: se mi aspetti arrivo. Va bene, noi siamo qua fino alle 18:30, dunque se sei un ottimo corridore ci troverai. E allora abbiamo Angelo, sei pronto? Sì, sono pronto. Benissimo. E allora abbiamo un gradito ospite al telefono e allora ti lascio a te io tutto quanto, linea, microfono, tutto quanto, perché dobbiamo parlare con l'amico Gianluca Calì. Pronto? Pronto? Pronto? Non abbiamo più linea. Allora tu continui il programma, io lo ricontatto. Perfetto, nuovamente. Perfetto. Ok, a dopo. Bene. Allora lasciamo la linea e spazio al nostro Angelo e noi ci risentiremo fra qualche secondo. Allora, niente, appuntamenti di motorsport. Motorsport, cosa abbiamo fatto? C'è stato il rally di Conca d'Oro, si è disputato settimana scorsa il rally di Conca d'Oro, un rally un po' sottotono, direi, c'erano pochi iscritti e alla fine ne sono arrivati 12. La gara era stata dominata da Denis Colombini fino alla quinta prova speciale. Dopo in realtà è passato davanti Ricci e di fatto ha vinto. Quindi primo Ricci, secondo Gianfico e terzo Costenaro. Questo per quanto riguarda il rally di Conca d'Oro, che è stata la prima gara del trofeo Terra che si è svolto a Corleone qui in Sicilia. Poi cosa c'è stato? Abbiamo avuto due settimane fa, abbiamo avuto il rally del Ciocco, come dicevo prima, è stata la prima gara del campionato italiano rally, dominato questa volta da Gian Domenico Basso. Un grande Gian Domenico Basso quest'anno al via con la Peugeot 207 Super 2000, scuderia Movisport della Munaretto, il team con cui correre Basso. Ha fatto una grande gara Gian Domenico, nostro caro amico Gian Domenico, che lo ricordo ai nostri amici, è stato ospite a Rally Ronde Scicolone, è stato apripista, è molto gentile, si è messo a nostra disposizione e ci siamo divertiti assieme a lui un paio di giorni, novembre scorso. Gian Domenico ha praticamente dominato la gara, dando un minuto al secondo, che è stato Alessandro Perico, e terzo a un minuto e mezzo Umberto Scandola con la Skoda Fabia ufficiale. Adesso stiamo già preparando per la gara successiva, Rally Mille Miglia che sarà questo fine settimana. Mille Miglia anche questo sottotono, purtroppo la crisi sta facendo parecchie vittime e sicuramente il motorsport non è da meno. Mille Miglia, che è sempre stato una delle più grandi gare del campionato europeo, quest'anno sarà valida solamente per il campionato italiano, quindi una gara in tono minore, meno chilometri, però ci attendiamo sempre il solito spettacolo, perché le strade di Brescia e delle sue valli sono sempre bellissime. Io ho avuto la fortuna di farlo nel 2001 e vi posso garantire che sono delle strade fantastiche. Gian Domenico Basso partirà col numero 1, Perico con il numero 2, Scandola, Andreucci che quest'anno correrà con il nuovo piccolo mostro di casa Peugeot, che è la 208 R2. Angelo, scusami, sì. ti devo interrompere perché abbiamo l'amico Gianluca Calì che è in diretta. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Allora, lo lascio nelle mani di Angelo. Ok. Allora, io non ho avuto il tempo di presentarlo, lo faccio adesso. Gianluca è un nostro conterraneo, è un grande appassionato, è un pilota, ma pilota amatoriale ovviamente, come lo siamo un po' tutti noi. Però lui ha fatto una grande cosa, perché è stato il precursore di un'operazione che potrebbe essere il futuro nei rally, cioè dare la possibilità a tutti di poter guardare i rally in diretta. Quindi lui si è fatto promotore di questa operazione che peraltro direi che ha avuto un successo strepitoso, che lui ha corso il rally di Monte Carlo, è vero Gianluca? Sì, confermo, ho fatto questa grandiosa esperienza, questa splendida opportunità che mi sono con non pochi sforzi creato pian piano e che è stata l'occasione in un'anteprima mondiale assoluta, quella di riuscire a mettere la telecamerina collegata in live streaming e dare la possibilità a qualsiasi persona collegata tramite internet a qualsiasi posto del mondo di entrare dentro l'abitacolo e vivere l'emozione che si vive all'interno di una macchina da rally nel fare una gara del mondiale rally, che appunto, come hai detto tu, essere il rally di Monte Carlo. E da lì, insomma, spero che possano prendere spunto, esempio, tutti, perché immaginate per un attimo se dovesse prendere campo, come mi auguro, questa iniziativa, si riuscirebbe ad avere tutte le macchine che partecipano ad un rally con queste telecamerine, e da casa si può vedere momento per momento tutti i partecipanti, cosa sta accadendo, come se si fosse all'interno di una regia, come se si fosse a casa a vedere un gran premio di Formula 1. Esatto, è l'unico sistema peraltro per far sì che i rally possano essere visti, perché è impossibile dotare chilometri di prove speciali di telecamere, no Gianluca? Esatto, è una cosa che più volte la RAI, non ultima, ha provato a fare, però l'unica cosa che sono riusciti a fare è quella di mettere ogni tot di curve una telecamera, però purtroppo non si dà la corretta emozione al pubblico, non lo si permette di prendere punto e corpo ad uno sport così bello, così affascinante, che però purtroppo non ha l'attenzione mediatica che invece meriterebbe. Esatto, lo aveva fatto Eurosport, lo ha fatto e lo fa Eurosport nell'IRC, però rilegato ad una piccola prova speciale, di solito di 3 km, una prova speciale spettacolo, dotata di telecamere, però al di là di questo non si può. Esatto, detto bene. Io volevo rappresentare un'idea a quanti magari non hanno seguito l'ultimo rally di Monte Carlo, che ha visto le ultime tre prove speciali sul Turini con condizioni meteo proibitive, neve, ghiaccio, temperature che andavano da meno 5 a meno 10, che è stata interrotta a causa ordine pubblico, perché c'erano oltre 100.000 spettatori in quelle condizioni proibitive attorno al circuito al tracciato, e allora gli organizzatori, credo che sia stata la prima e unica volta che sia accaduta una cosa del genere, hanno interrotto le ultime tre prove speciali, facendola finire alla 15ª anziché alla 18ª prova speciale, perché tra la strada ghiacciata e con la neve, tra il fatto che moltissimi uscivano fuori strada e questo pubblico calorosissimo e numerosissimo, hanno ben pensato di interromperla per evitare che si potesse consumare qualche dramma, proprio perché c'era tantissima gente. E quindi questo per dire cosa? Che immaginate per un attimo se ci fosse la possibilità di dare ancora più fruibilità a questo sport meraviglioso, secondo me avremmo un audience e un'attenzione mediatica, non dico pari al calcio, ma sicuramente avremmo il giusto onore, il giusto merito a quanti sia lo seguono che quelli che insomma vi partecipano. Sono assolutamente d'accordo con te. Peraltro io ieri ero al telefono, mi sono sentito con il mio caro amico Piero Longhi, il quale quest'anno farà una cosa diversa da quella che ha fatto per più di 20 anni, cioè rally. Quest'anno farà il campionato sulle monoposto, farà il Formula 2000 Light, quindi in pista, e quindi ancora più facile, perché c'è la massima copertura di solito nelle piste, almeno in Italia. Allora gli ho detto: scusami Piero, ma visto che hai la telecamerina, perché ho visto un camera car, gli ho detto: scusa, perché non la fai streaming? Mi ha detto: ma sai che è una bella idea, adesso ne parlo con l'ingegnere, chi lo sa, magari vedremo le gare di Piero Longhi nel campionato Formula 2000 Light quest'anno in diretta streaming. E quindi magari, sai, piano piano magari le idee lo inizieranno a farlo un po' tutti. Ma sì, ma me lo auguro. Poi una cosa importante che non è emersa ancora, ma vorrei sottolinearla, è che è gratuita, non bisogna pagare nulla, non bisogna spendere nulla, non ci vogliono chissà quali mezzi in campo per poter realizzare una cosa così spettacolare tanto quanto economica e di facile fruibilità al grande pubblico. Sì, ci vuole un cellulare, una scheda per per caricare i dati, no? Cosa ci vuole? Sì, sì, sì. Poi, insomma, dei piccoli affarini che hanno un costo risibile, ma la cosa importante, come hai detto tu, il cellulare è la ricezione GSM o satellitare che sia adeguata. Gianluca, quali saranno i tuoi programmi quest'anno? Allora, io faccio questo fine settimana, il 13 e il 14, il ronde di Giorgio Marea. Come diciamo attività last minute organizzata all'ultimo momento. Poi sto cercando di mettere anima e corpo per riuscire a fare la tappa del campionato del mondo in Germania, il WRC, che sarà dal 22 al 25 di agosto del 2013. Poi ovviamente la gara di casa della Targa Florio e se riesco il Rally di Monza. Sicuramente rifaccio e rifarò il Rally di Monte Carlo 2014, che è una gara assolutamente unica e che dà tante emozioni che è solo quella, secondo me, riesce a dare. Certo Gianluca, hai avuto del coraggio e hai del coraggio per uno come te, che in macchina ci sarà una volta ogni tanto, a decidere di andare a fare il Rally Monte Carlo. Poi con le condizioni che hai trovato quest'anno è stato veramente coraggioso, e poi sei stato bravo perché alla fine lo hai anche finito. Ma, ma il coraggio di Gianluca Galì non si ferma qui, perché noi purtroppo sappiamo che adesso magari tu ce ne parlerai, perché ci fa piacere che tu ce ne parli. Gianluca purtroppo è stato protagonista di una cosa un po' meno bella. Ce ne vuoi parlare, Gianluca? Sì, onestamente è una di quelle cose che, come hai detto tu, sono diventato protagonista e sono andato all'onor delle cronache, e mio malgrado, nonostante avessi voglia solamente di fare il mio lavoro, che è quello di vendere auto e di alzarmi la mattina con quell'unico obiettivo e scopo di arrivare a fine giornata con la soddisfazione di poter dire che, insomma, mi sono guadagnato onestamente la mia giornata. Purtroppo 2 anni fa già mi erano state bruciate delle autovetture da ovviamente persone che non sono sicuramente delle brave persone, e in questi 2 anni ho subito di tutto e di più, tutte puntualmente attività denunciate alle forze dell'ordine e agli inquirenti, che ringrazio, non finirò mai di ringraziare, perché grazie a loro posso tranquillamente vivere e dormire con la certezza di fare la cosa giusta. Però mio malgrado, nonostante in questi 2 anni mi sono dovuto trovare a chiudere delle sedi, ad aprirne un'altra, ahimè non più tardi di un mese fa, si sono ripresentati facendo capire che ci potesse essere l'ipotesi che quanto accaduto 2 anni fa si possa ripresentare. Allora a quel punto ho fatto quello che ripeto è una cosa normale, che tutti dobbiamo fare, quello di denunciare nuovamente l'accaduto. Dopodiché, preso dallo sconforto, ho preso un cartello e ho appeso il cartello fuori in cui recito e chiedo l'aiuto della cittadinanza, perché ahimè, le forze dell'ordine, gli inquirenti da soli non possono vincere questa battaglia, comunque se sicuramente hanno la necessità di avere la totalità della gente per bene, onesta, dalla loro parte, che possa sicuramente dare una mano nel cercare di risolvere questo annoso problema che coinvolge tutti, a prescindere dal colore politico, a prescindere dal colore della pelle o tantomeno dell'appartenenza religiosa. Anche perché, se non sbaglio, Gianluca, tu hai una concessionaria, avevi una concessionaria a Milano e poi hai deciso di farne una seconda qui in Sicilia, quindi hai investito nella tua terra alla fine, no? Sì, io quello che ho fatto è che rifarei ogni giorno della mia vita è quello di cercare di tornare a fare il profeta in patria, cioè quello di, dopo essermi trovato costretto ad emigrare e a portare con me dei collaboratori in Lombardia, sono riuscito a trovare e convincere un imprenditore milanese a investire in Sicilia, così che potessimo creare questa grande opportunità che è questa società che si chiama Caritas in Sicilia stesso, e da subito abbiamo avuto dei grandi risultati e grande soddisfazione. Dopodiché, ahimè, è successo quello che è successo e da allora, ahimè, continua a vivere con l'incubo che si possa continuare a prevalicare e a vivere questa situazione non troppo piacevole, e certo, andare avanti, cercare di superare il momentaccio. Gianluca, c'è poco da aggiungere, ovviamente io personalmente ti dico che hai tutta la mia, anzi la nostra solidarietà, ti siamo vicini, ti ringraziamo tanto per la tua testimonianze, ci vediamo allora su direttarelli.it a seguire le tue dirette streaming, no? Sì, esatto, direttarelli.it, hai detto bene, è il sito gratuito, ovviamente è, come dicevo, un esperimento non testato che pian piano va migliorando, totalmente gratuito, che cerca di dare l'emozione di questo meraviglioso sport che è il rallismo a quanti hanno questa passione e che non hanno la possibilità di girare il mondo per andare a vedere una gara prestigiosa come questa, quella del Monte Carlo, piuttosto che quella dello Giappone. Grazie Gianluca Galì, grazie a voi, ti salutiamo. Buona giornata e a presto. Grazie, buona serata. Allora, grazie a Gianluca Galì, grazie a tutti voi. Adesso facciamo una piccola pausa, ci risentiamo fra poco. CRM Notizie. Trovati all'ascolto da Stefano Izzo. Stangata del giudice sportivo per Mario Balotelli. L'attaccante del Milan è squalificato 3 giornate per gli insulti all'arbitro di porta durante il match con la Fiorentina. I rossoneri hanno annunciato ricorso. Dure le sanzioni anche per la rissa al termine di Inter-Atalanta. 3 turni ai bergamaschi Raimondi e Carmona, 1 a Cigarini e all'interista Schelotto. Intanto è ufficiale, Cagliari-Inter di domenica prossima alle 15 si giocherà a Trieste. -1 a Juventus-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di Champions League. A Torino sognano una rimonta storica dopo il 2-0 subito in Germania. Gianni De Gaetano. Io ci credo, nel nome della Juventus. Leo Bonucci l'ha definita rimontona perché forse il Bayern Monaco assomiglia a qualcosa di grande e grosso da sopraffare. Serve sicuramente una vecchia signora in lungo per ammaliare i tedeschi di bianco e rosso vestiti appena eletti più belli della Bundesliga e attesi dallo stadium versione Bolgia Bolgia made by Antonio Conte, che parla in compagnia di Chiellini alle 18:30, magari per confermare gli innesti di Pogba e Padoin nelle veci degli squalificati di Steiner e Vidal, di Quagliarella con Vucinic, dei ritorni nemmeno a dirlo di Marchisio, Pirlo e del totem Buffon, un pensionato secondo Beckenbauer, una leggenda secondo Mr. Heinkes, volto tirato oggi in conferenza stampa 3 con i più prudenti Robben e il portierone Neuer. Sarebbe importante segnare un gol, dicono, mentre l'olandese sceglie la cautela, può succedere di tutto. Nella sua storia europea la Juventus non ha mai rimontato una sconfitta per 2-0, chissà se lo sa anche Robben. E stasera conosceremo i nomi delle prime 2 semifinaliste di Champions. Sembra una formalità per il Real Madrid, atteso dal Galatasaray, già battuto 3-0 in Spagna. Si gioca anche Borussia Dortmund-Malaga, 0-0 all'andata. Formula 1, alle porte il Gran Premio della Cina, Felipe Massa carica la Ferrari. Siamo più competitivi rispetto allo scorso anno. A Shanghai non puntiamo solo a fare punti, ma a salire sul podio, ha detto il brasiliano. È tutto per lo sport, buona serata. CLM. CRM Happy Radio. Segui CRM su tutti i principali social network: Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus. Ascoltaci e guardaci sul tuo iPhone, iPad o su tutti gli smartphone e tablet Android. CRM Happy Radio, sul tuo telefonino e sul tuo PC. CRM. Ogni martedì dalle 17 alle 19 CRM Linea Sport. Notizie, curiosità, personaggi e interviste. Conduce in studio Santi Genovese. Sponsor della trasmissione Mondo Moto, vendite e ricambi automoto via Roma 127 Cefalù, Globat Viaggi via Porto Salvo 54 Cefalù, Bet Sicily, scommesse online via Maestro Pintorno 15 Cefalù. CRM, si sente e si vede. E allora, eccoci tornati nuovamente in studio, una bellissima intervista del nostro amico Angelo che si sistema la sua bella cuffia, adesso ritorna nuovamente in diretta perché torniamo a parlare in questo appuntamento di CRM Linea Sport di automobilismo. Abbiamo detto all'inizio che da questa settimana si apre questo appuntamento, una rubrica all'interno di CRM Linea Sport con l'automobilismo, anche perché inizia questa lunga stagione dei motori e il nostro esperto Angelo Matassa sarà quasi tutte le settimane qui con noi a portarci le novità e a farci ascoltare anche la voce dei protagonisti. Bene, Angelo, a te ancora una volta la linea. Tu chiaramente adesso ci illustrerai, mentre fra poco avremo un altro ospite in linea per poter parlare ancora di automobilismo. Sì, eccoci ritornati. Vorrei parlare di un'altra specialità, che se no parliamo sempre di rally, allora, però c'è un legame con rally in effetti, perché parlando, quando io vi parlo di Formula 2000 Light, in effetti il protagonista, uno dei protagonisti, anzi forse il protagonista di quest'anno, ha avuto un grande passato nel rally ed è Piero Longhi, e ne l'avevo accennato prima. Piero Longhi, lo sapete, è mio carissimo amico, è anche stato testimone di nozze, è stato un po' la persona che mi ha aperto tra virgolette le porte nel mondo del campionato italiano e poi il campionato del mondo rally. Perché se non lo sanno magari i nostri radioascoltatori, io sono stato il cuoco per la Grifone nei rally per 10 anni, abbiamo fatto il campionato del mondo rally, io mi sono occupato proprio del catering, e ad arrivare a questo mio obiettivo, che per me era un sogno, è stato Piero Longhi. Piero Longhi è un grande campione, io sempre vicino, sempre a massimi livelli. Quest'anno ha deciso di cambiare, ha deciso di provare una nuova emozione dopo 27 anni, mi sembra, di rally. E si è infilato in una monoposto l'anno scorso, per gioco, si è divertito e è anche andato forte e allora poi cosa ha pensato? Quest'inverno ha pensato bene di mettere su un campionato per intero, e quindi quest'anno ce l'avremo, sarà uno dei protagonisti, vero Piero? Allora un attimo Angelo, te lo passo subito, sì. In diretta, pronto? Pronti? Ci sei? Eccoci. Ecco, sì, ci sono. Ciao Piero, benvenuto. Ciao. Buona serata. Allora, ciao compare. Ciao compare. Allora, io stavo cercando di iniziare un po' questa nostra conversazione dicendo che hai fatto questa, tra virgolette, questa pazzia. Cioè sei sceso dalle macchine da rally, ti sei infilato in una monoposto e ti diverte pure sta cosa. Com'è questa faccenda qua? Spiegacelo un po'. Guarda, attraverso questo mio amico Paolo Viero di infanzia, sicuramente ci conosciamo da tantissimi anni, da quando eravamo piccoli, lui è qualche anno che bazzica un po' con queste formule, nel campionato 2000 Light, che oltretutto è un campionato promosso da Aero di Prima, che seguiva siciliano come voi, quindi sì, è un nostro carissimo amico, sì. Ecco, che seguiva i rally fino a poco tempo fa, e lui è qualche anno, Paolo è qualche anno che cerca di farmi provare la macchina, di portarmi, soprattutto di farmi provare la macchina, io per vari casini di tempo con i rally, con tutte le cose, non ho mai accettato e non ho mai provato sta formula. Poi due anni fa mi ha convinto, con Eros, che mi ha dato una grossa mano per fare la gara a Monza, abbiamo fatto la prima garetta con il Renault, con il Renault di Paolo, e a Monza, e devo dire che mi sono divertito molto. Cioè, non è un caso, perché la pista è comunque, adesso quei rallisti mi andranno contro, la pista è, da quando ero piccolino, la mia prima passione. Io quando ero piccolo non seguivo i rally, seguivo la pista, mio papà mi portava a vedere i Gran Premi a Monza, e poi dopo invece mi sono innamorato dei rally e ho iniziato a correre in quella categoria lì, però in effetti seguo la pista da tantissimi anni, da quando ho 78 anni. Quindi abbiamo fatto sta garetta, e poi dopo, l'anno dopo, abbiamo fatto di nuovo un'altra gara a Franciacorta con il Formula 3, e una macchina che, dopo che ho provato, ahimè, è dura tornare indietro, è come per dire, in ambiente realistico, come provare a correre, diciamo, con una Clio 1006, provare un WRC e poi tornare indietro, è la stessa, certo, cosa. Il Formula 3 non di motore ma di telaio è incredibile, ha una percorrenza in curva impressionante. Comunque abbiamo fatto sta gara, ne ho vinta una io e una Paolo, quindi abbiamo portato a casa, diciamo, tutte e due le gare, e dopodiché io sono andato avanti col discorso rally IRC, lui ha fatto qualche altra gara e abbiamo finito l'anno. Fine dell'anno scorso abbiamo parlato con il nostro sponsor, che è Easy Play, che ci ha dato una mano l'anno scorso, che è lo sponsor di Paolo, dove lui oltretutto ci lavora anche, cioè ci lavora con questa società, e alla fine siamo riusciti a chiudere di nuovo il contratto, e quest'anno, invece di fare solo qualche garetta, faremo tutto il campionato, almeno l'idea nostra. E quindi hai preso i meccanici, i furgoni, la Twister, e li hai dirottati. Ah no, ecco la novità. Sì, no, l'altra novità, che non mi fate, hai fatto bene a dirmelo, è che soprattutto per i costi e soprattutto anche per, alla fine ne ho parlato con il boss Twister e la boss, cioè Stefania e Sergio, ho detto, ma perché senza appesantire la società di costi, perché questa è la cosa principale, non lo facciamo noi, e vediamo di mettere un piedino per ora anche in circuito, così per allargarci un po', visto comunque che la situazione in Italia è abbastanza grave, sì, motorsport è uguale, quindi più risorse hai in giro e meglio è, e loro l'hanno preso subito al volo. Io in effetti sto cercando di non far pesare assolutamente con nessun costo alla società, e ci sto riuscendo. Abbiamo preso due macchine a noleggio, anzi una l'abbiamo comprata e un'altra a noleggio, con l'idea di fine anno di riscattarla. L'officina c'era, i furgoni c'erano, i meccanici c'erano, ti dico due o tre cosine giusto per di chiavi, di accessori, perché proprio per gestire le formule, ma proprio due o tre cosine, e siamo partiti, nel senso che abbiamo già fatto due giorni di test a Varano, sono andati molto bene, anche il team è andato molto bene, abbiamo visto se eravamo all'altezza di gestire due macchine del genere, abbiamo preso un ingegnere che ci seguirà tutto l'anno, che è Matteo Cavedoni, che è un ingegnere molto molto bravo, che ci sta dando una grossa mano per cercare di guidare al meglio queste macchine qui e di gestirle al meglio, e domenica partiamo per la prima gara e vediamo subito come sarà la cosa, ecco. Bene, ottimo. Ma di un po', se noi volessimo seguire questa tua esperienza, c'è la possibilità di farlo? C'è un sistema, una TV, un qualcosa che... Allora, io so che l'anno scorso e penso anche quest'anno, diciamo, la TV ufficiale, che poi forse è una TV streaming, non streaming però, è Race TV, e che non fa le dirette di sicuro, ma fa il servizio che poi verrà dato, probabilmente poi verrà dato a diverse televisioni e si potrà vedere anche soprattutto su internet. Adesso stiamo valutando con anche altre TV, di questo logicamente devo parlarne con Eros, perché lui è il promotore di tutto, che però se riusciamo, secondo me, soprattutto se non abbiamo altri costi, lui penso che sarà molto, molto contento. Ieri ero in Automoto TV lì a fare una sì, serata, sì, e ne abbiamo parlato lì. Stasera ci sarà, oggi, e che quindi lo manderanno stasera a Dinamica Racing, con Matteo Batti abbiamo fatto un'altra serata parlando soprattutto di Sanremo Storico e di rally, non di pista, però stiamo vedendo se riusciamo a organizzare qualcosa di più, cercare di fare qualcosa in più, e soprattutto da una tua idea, soprattutto, che secondo me non è male ed è abbastanza fattibile, cercare di fare qualcosa in streaming, in diretta, per dirti Camera Cara o qualcosa del genere, su internet, che questo secondo me è una cosa che secondo me potrei anche fare io, assieme a chi mi crea i filmati, chi mi crea tutte le cose, perché con le tecnologie che ci sono adesso, a costi bassissimi, secondo me è una cosa che si può mettere in piedi. Ne abbiamo parlato qualche minuto fa con Gianluca Galì, che è stato il pilota con cui ha fatto il Rally di Monte Carlo quest'anno, e ha mandato in diretta tutta la sua gara. Ecco perché l'idea è sua. Ma di un po', spiegaci un po' il format invece di queste gare, di questo campionato. Ma secondo me è molto, molto intelligente, soprattutto per i costi, perché intanto, vabbè, le gare sono sei, mi sembra due gare a Varano, una Francia Corta, una Monza a fine anno, un'altra Misano, Adria. E Adria, ecco, sì. E purtroppo la prima gara, che era una gara a test, è saltata, quella di Adria, due o tre settimane fa, che noi saremmo andati, è saltata non per colpa di 2000 light, ma per colpa di, non colpa, ma perché le altre categorie che erano presenti in quel weekend lì, non avendo iscritti, non hanno fatto la gara, quindi logicamente i costi della pista sono talmente alti che una sola manifestazione non può, certo, non può supportare tutte le spese del weekend di una pista del genere. Ma visto anche la situazione in rally, continuano a saltare gare, speriamo che sia normale che sia solo la prima e ultima, perché sarebbe un peccato. Il format quindi molte gare si disputeranno solo su un giorno, quindi anche per i costi è una buona cosa, qualche gara su due. E ci sono due turni di qualifiche di 15 minuti che fanno in modo di fare le classifiche per le due gare, per la prima e per la seconda gara. E poi ci sono due gare da 20 minuti e da 30 minuti, nelle piste più lunghe una da 20 e una da 30, nelle piste più corte due da 20. Okay. La cosa importante, molto importante, è che in queste gare le macchine, ci sono vari tipi di macchine, basta che siano 2000, e quindi c'è la Formula 3, c'è la Formula Renault, c'è la Formula Master, c'è la Fiat Abarth, che è un 1400 turbo, quindi entra nel discorso 2000, e dopodiché vengono redatte, ci sarà, vabbè, l'assoluta e le varie classifiche. Okay. Questo fa sì di avere, sicuramente più macchine, perché chi è proprietario di un tipo di macchina può partecipare, non dovendo per forza avere un tipo di macchina solo. Senti Piero, qualche anno fa in un parco assistenza al rally di Costa Smeralda c'era un ragazzo che vagava lì in giro per il parco assistenza, non ti conoscevo. Che è venuto, ti volevo conoscere, venuto, ti volevo conoscere. Ti volevo conoscere, ho detto vabbè, non c'è problema, vieni, te lo presento io. Questo era Roberto. Ma è lui che voleva conoscere me o io che volevo conoscere? No, era lui che voleva conoscere te perché era un tuo fan ed è appassionato di rally. Detto così, quando dici il nome, la gente che riderà. No, non ride, è così, perché non sto scherzando, è veramente così. Ma io voglio che tu poi mi racconti cosa ha detto lui quando tu hai fatto il contrario. Insomma, la persona è Robert Kubitz. È stato molto carino perché è venuto a trovarci nei due giorni di test a Varano. Abbiamo cercato di fargli fare un giro, ma non ci siamo riusciti, anche se poi non c'era nessuno, si poteva anche fare. Però non riusciva, non aveva sedile, non siamo riusciti a fare in modo di fargli provare la macchina perché sarebbe stato molto carino. E no, lui, sì, incredibile, no, è una roba strana che lui va, sta facendo i rally e io sto andando in pista, quindi ci siamo scambiati i ruoli, speriamo di andare in pista tanto forte quanto lui sta andando nei rally. L'unica cosa è di non fare però i danni che sta che facendo. Fa lui, mannaggia, sì. Che fa lui, perché secondo me lui vabbè li può sopportare, noi invece sarebbe un corso sopportare dal punto di vista economico, economico dire. Sì, perché penso che ha sponsor, che comunque è stato un peccato perché Robert proprio nella prima gara dell'ERC del campionato europeo alle Canarie stava dominando e poi invece per un'uscita stupida si è dovuto fermare. Mi ha spiegato un problemino con le note, ha capito male una nota, un allungo, in effetti vedendo il camera car dopo che mi ha detto così, in effetti ho capito dell'uscita, è logico che arriva da 3 uscite, praticamente 4 uscite, di cui una, vi ricordate, brutta con la Citroen dove ha preso fuoco la macchina, sì. Un'altra a Sabatini di Cartoccia abbastanza innocua, però ecco, in effetti ha avuto un periodo un po' sfortunato, per contro sta andando fortissimo. Sta andando fortissimo, incredibile. Sempre detto, oltretutto questo weekend farà la seconda gara sulla terra, perché ha fatto nel weekend scorso ha fatto una garetta che è una specie di rally sprint in Portogallo sulla prova di Fafe, che è un antipasto del mondiale che ci sarà questo weekend con la Citroën General Car, e partendo abbastanza in sordina come normale, è la prima volta che lui usa che guida sulla terra, è incredibile come mi sembra al terzo o quarto passaggio abbia fatto praticamente lo stesso tempo di Mikkelsen. E Mikkelsen usa una Polo WRC, incredibile, non regional car, una macchina regional car con la frangia da 30, una macchina che ha 30, certo. 40 cavalli in meno, lui usa una Polo WRC e sappiamo che Mikkelsen, nel senso, soprattutto sulla terra, l'esperienza. Quindi, è tutto, certo. Sì, ottimo. Va bene, Piero, grazie per questa chiacchierata, sei stato gentilissimo. Allora, in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza, e ti vedremo in giro per i circuiti. Io spero non solo per i circuiti, però al momento la situazione sul discorso rally è abbastanza ferma, non ferma del tutto, perché stiamo soprattutto con Twitter che ci tiene molto, perché Twitter è nata e continua a essere dei rally, cioè, diciamo la presenza principale, e stiamo cercando di rifare gli RC come l'anno scorso. Abbiamo ancora adesso un po' meno di un mese, non è tanto, però io conto di esserci quel campionato lì, se no a vedere di fare qualcos'altro, però la situazione non è in effetti molto buona. Eh no. Va bene, Piero, pazienza, bisogna che teniamo duro tutti, aspettiamo che passi più fretta possibile. Sì, intanto questa esperienza qui secondo me sarà molto molto carina. Adesso stiamo cercando, ecco, di riuscire a promuoverlo bene. Questo oggi è uscito sotto sprint una bella pagina che praticamente parla solo, almeno le foto parla solo su di noi. Gli altri del 2000 likes secondo me non saranno molto contenti perché ci sono solo, certo, foto nostre, certo. Però secondo me anche questo fa in modo che se ne parli un po' di più, e che quindi anche questo campionato, quindi bisogna un po' inseguito, perché secondo me merita. Non è un campionato di professionisti, ma di piloti, non dico gentleman, perché c'è un po' di tutto, però secondo me è una formula molto carina. Bene, quindi stasera alle 22.30 su Dinamica Channel, il canale sì, 249 del Digitale Terrestre, ci sarà una trasmissione dove sarai ospite. Sì, sì, ci sarà anche Fabrizio Cavero della Michelin e il grande Noberasco, che in effetti okay, poi vedete stasera ha fatto un po' di cinema. Ok Piero, ti ringraziamo tanto e buon lavoro. Grazie a voi. Ciao, grazie, buona serata. Ciao. Bene, allora, carissimo Angelo, bellissima intervista per l'amico e tuo compare, tra l'altro, Piero Longhi. Adesso noi per un attimo diamo la linea alla regia, poi torniamo qua per i saluti e la sigla finale di questo appuntamento di oggi. E allora, eccoci tornati nuovamente in studio, siamo arrivati alla conclusione di questo nostro appuntamento di oggi, CRM Linea Sport, naturalmente abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di basket, abbiamo parlato di pallavolo e soprattutto abbiamo iniziato questa nuova rubrica di automobilismo con Angelo Matassa, che praticamente oggi ha intervistato due grossi campioni dell'automobilismo, cioè Gianluca Calì e Piero Longhi proprio qualche minuto fa. Ebbene, dunque, noi cosa dobbiamo dire, Angelo? Sei stato veramente alla grande oggi come primo appuntamento, ci hai portato due graditi ospiti al telefono, noi ti ringraziamo e poi martedì prossimo ci porterai altre sorprese, penso. Sì, adesso mi preparo meglio perché mi hai preso un po' in contropiede l'altro ieri quando me l'hai proposto e poi io non sono abituato ad avere cuffie e microfono davanti. Beh, ti abituerai pian pianino, sì, okay. Tu vedi che nelle TV quanti opinionisti ci sono che vengono dal calcio, dall'automobilismo, che appunto lasciano dei ferri e ne prendono altri del mestiere, e così pian pianino anche il nostro Angelo si abituerà a questi nuovi ferri del mestiere, che sono la cuffia, il microfono, insomma le notizie sull'automobilismo, sul motociclismo. Bene, io ti ringrazio Angelo, vuoi aggiungere qualche altra cosa? Sì, beh, allora questo fine settimana l'appuntamento più importante è dal 12 al 14 di aprile il Rally di Mille Miglia, come dicevamo, la seconda gara del campionato italiano. Vedremo cosa succederà con Basso e tutti gli altri protagonisti del campionato, e ci rivediamo la prossima settimana. Allora va benissimo, allora un grazie, saluto a Angelo Matassa, un saluto nostri sponsor Mondo Moto in ricambi auto e moto in via Roma 127 a Cefalù, la Globat Viaggi in via Porto Salvo, la Bet Sicily, e naturalmente ringraziamo anche il presidentissimo Totò Marsala del basket Zanella Basket Cefalù, che è stato ospite telefonico nel nostro programma di oggi. A me non rimane altro che darvi l'appuntamento per martedì prossimo, sempre con CRM Linea Sport, insieme a questa nuova rubrica di automobilismo con Angelo Matassa. A tutti voi la più cordiale buona serata e a risentirci e arrivederci alla prossima settimana. Grazie.